Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, ben ritrovati a tutti, benvenuti in questo martedì sera, martedì 5 febbraio del 2013. Io sono Flavio Bilato e con me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, ancora un appuntamento live, quindi ormai ne abbiamo fatti mille nel corso delle nostre peregrinazioni radiofoniche, Maurizio. Sì, 180 l'anno scorso, quindi. 180 l'anno scorso, per cui facciamo un conto un conto veloce di quello che faremo anche quest'anno, anzi sicuramente un numerino in più ce lo mettiamo quest'anno. Decisamente. E sempre con ospiti eccezionali, a giudicare da quello che sta succedendo dagli inizi di gennaio. A confermare questo, gli ospiti che abbiamo in studio questa sera vengono da Verona, vengono a proporci qualcosa che riguarda la luce. Loro si chiamano i Metodica e non sono nuovi all'appuntamento con Blu Radio Veneto. Buonasera Metodica. Buonasera. Allora salutiamo Max, salutiamo Marco, che sono i due rappresentanti del gruppo formato comunque da 5 persone, che sono i Metodica. Quindi abbiamo Massimo Piubelli e Marco Piccoli, rispettivamente voce e batteria della band. Per l'occasione Max è munito anche di chitarra per rendere omaggio, diciamo in maniera adeguata sicuramente, a chi invece suona la chitarra all'interno del disco. Quindi mi auguro adeguata, ecco, diciamo. Assolutamente sì, vedrai che ce la faremo. Poi ho ascoltato le prove prima, insomma, diciamo, posso confermare per gli ascoltatori. Allora, Metodica, si parlava di luce perché è uscito un EP da poco, si intitola Light My Fire, e abbiamo già scoperto all'inizio noi, ascoltando il disco, che c'è un qualcosa che riguarda un pezzo che nasceva circa 45 anni fa. Non an opera vostra, perché non eravate ancora nati. Direi di no. Però c'era qualcuno. Io sì. Sì. C'era Maurizio, ecco, Maurizio, che si era precipitato, nonostante la tenerissima età, a comprarsi il disco. A quel Il 45 giri, firmato da Manzarek e soci. Quindi stiamo parlando dei Doors, Light My Fire è proprio dei Doors. E Light My Fire è anche il titolo dell'EP che ci state presentando nel corso di questa trasmissione fino alle 22.30 all'interno di Blu Time Live. Oh yeah. Allora, che dire in principio di questo Light My Fire, Max? Allora, la cover di Light My Fire è nata per un motivo molto semplice. Siamo stati invitati a far parte di una compilation tributo ai Doors, che è stata pubblicata da un'etichetta discografica veronese, l'Azzurra Music, nel 2011, per il quarantennale della morte di Jim Morrison. E noi dovevamo, come tutte le band coinvolte nel CD, dovevamo scegliere un pezzo dei Doors da riproporre nella nostra maniera, rivisto come in qualsiasi chiave si voleva rivederlo, e noi abbiamo deciso di cimentarci con Light My Fire. Perché un azzardo, era veramente mettere le mani su un qualcosa che così a prima vista era assolutamente intoccabile, ed era una sfida che ci eravamo posti per vedere che cosa potevamo fare noi come band su un brano che di per sé era già perfetto così com'era, per cui non aveva senso riprenderlo pari pari, era più semplice e anche più logico ripresentarlo alla nostra maniera, secondo lo stile della nostra musica. E quindi abbiamo pensato di fare una versione completamente diversa, che però nel cantato è uguale all'originale, per cui il brano si può riconoscere, però allo stesso tempo sembra quasi una canzone proprio dei Metodica, nello stile proprio che ci è consono, che è riconoscibile. Il progetto ci è piaciuto così tanto e la canzone ci è piaciuta come è venuta fuori, per cui abbiamo deciso di riutilizzare il brano come come brano traino per un nuovo EP nostro, dove includere materiale del disco precedente, però in versioni diverse, e anche qualcosa di inedito, un po' come regalo anche per i fans che e per quelli che ci hanno seguito fino a questo momento. Ecco, c'era un po' il compendio, la summa di quello che sono stati e che sono adesso in Metodica. La chiave di volta positiva, secondo noi, è l'avere di proposto ripreso Light My Fire, ma rifacendola a vostra maniera, perché gli anni 60, 67, 68, c'era un gruppo italiano che rifece Light My Fire in versione italiana, era un gruppo beat sì, praticamente. E non si chiamavano Le Porte. Esattamente. Vero? Sì. Non si chiamavano proprio così. L'aveva rifatto copiandolo, facciamo una cover vera e propria. Voi l'avete ripresa non facendo una cover, ma facendo un pezzo vostro praticamente. Noi abbiamo fatto come se fosse un pezzo nostro, volendo, cambiando le parole, mettendo un'altra melodia, potrebbe essere un pezzo originale firmato Metodica in tutto per tutto. Questo è firmato Metodica per metà. Esatto. Allora ci ascoltiamo questa firma Metodica per metà, per dare poi spazio ancora ad ulteriori commenti, quindi ci ascoltiamo proprio Light My Fire nella versione da CD. Come on, baby. Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Eccoci qua sempre all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, Blu Time Live. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavarra che insieme a me conduce questa trasmissione, e poi ancora un grazie Metodica per essere con noi in questa serata per parlarci di questo lavoro che abbiamo già cominciato ad ascoltare proprio con questa Light My Fire dei Doors, riveduta e corretta, molto corretta e quasi, come si diceva in principio, irriconoscibile, nel senso che ci sono molte venature che portano lontano da quella che era, diciamo, l'impostazione musicale propria data dai Doors. Forse erano altri tempi, era il 1967, se ci fossero stati, diciamo, le strumentazioni giuste per quell'epoca l'avrebbero fatta anche loro senz'altro più, come dire, elaborata, come l'hanno fatta i Metodica. Un brano che abbiamo scelto tra le varie versioni proposte da Metodica nell'extended version, scusate, perché c'è anche un bel assolo di chitarra e un finale di piano molto garbato, quasi classico. Allora Max e Marco, ancora ben trovati. Gli ascoltatori sicuramente vogliono sapere, i fans soprattutto, di quale Marco stiamo parlando. Del batterista Marco. E mentre a casa sono rimasti gli altri Marco, sì, sì. Quindi li salutiamo. Sono rimasti Marco Ciscato chitarra e Marco Baschera tastiere. E poi Alessandro Brusco il basso. Ecco qua. Benissimo, che non sono potuti venire questa sera. Ma comunque, siete una degna rappresentanza. Siamo una degna, cerchiamo di essere una assolutamente degna rappresentanza. Allora, Light My Fire, Maurizio. Sì, la leggenda narra. La leggenda narra, si parla del 67, dopo vediamo la leggenda di Metodica. La leggenda narra che Robbie Krieger, che era la new entry del gruppo, venne invitato da Jim Morrison: fai qualcosa, scrivi qualcosa. Allora, di corsa, lui ritornò a casa in un'ora, come giustamente tu hai detto, ha scritto il pezzo. In un'ora, ragazzi. La leggenda di Metodica, come è stato? L'idea è partita da quello. Però c'era un'idea precedente, al di là della compilation, di pescare Light My Fire, al di là della compilation. Ma in realtà l'idea è nata con la compilation. Direttamente con la compilation. Non c'era nei vostri concerti che avete fatto nel 2011, avete accompagnato, avete gli Uriah Heep, cari ascoltatori, io a microfoni spenti ho chiesto: ma come stanno gli Uriah Heep? Ho detto: molto bene stanno. Io che non ho una certa età, sono ancora in forma. Per l'età che hanno, informissimo. Esattamente. Decisamente in forma. Ricordiamo perché abbiamo nominato gli Uriah Heep, soprattutto perché voi siete stati gruppo di apertura durante Siamo stati gruppo di apertura al Valle Maggia Music Festival in Svizzera, a Cevio. E loro erano, gli Uriah Heep erano la band della serata e noi abbiamo aperto il concerto, abbiamo suonato prima di loro. È stata un'esperienza molto molto bella, sì. Decisamente. Com'è suonare, perché non siete propriamente uguali degli Uriah Heep, forse anche l'età, ma non solo. Anche lo stile non è proprio... Appunto, ma voglio dire, cioè, vi hanno ascoltato? Cioè... Loro in realtà erano si stavano preparando per suonare, per cui ci avranno sentito, come si dice, di striscio. Però una cosa che si può dire, che abbiamo avuto modo di riscontrare, che ci è piaciuto molto, è vero, eravamo un po' diversi da quello che suonano loro e dicevamo ma in effetti non c'entriamo molto. Poi abbiamo detto: ma chi se ne frega, cioè andiamo a suonare. In quei contesti la gente, il pubblico, sembra che abbia voglia solo che di rock, e quindi chitarre distorte e musica che ce ne sia, e quindi non c'è tanto, cioè, tanto pregiudizio o tanta critica. Lì è bastato iniziare col pezzo giusto, dare spedite fino alla fine. Dovevamo fare un 45 minuti, che mi ricordo. Quando avete fatto come set? Avete fatto 45 minuti? Sì. C'è chiesto il bis, se non ricordo male. Bene. Poi alla fine addirittura c'è stato un signore vestito di bianco che ci ha bloccato la scaletta, ci ha detto ragazzi tornate su perché la gente vi vuole. Era svizzero questo caso. È quello sinceramente. È per quello. Certo, vestiti di bianco o il Papa o... Era incredibile questo personaggio. Certo. Non so se era il manager, era l'organizzatore, non so. Sicuramente un angelo custode. Però ci voleva tutto. Ho vissuto quei tre quarti d'ora che da quando avevo 15 anni che volevo, no? Quelli che sognano tutti, chi suona. Certo. E quel momento di gloria, la gente salta, ti applaude. Sì. E c'è chi ti dice torna sul palco perché la gente ti vuole. Della serie chi sono questi qua e poi... Non sappiamo chi sono ma ci piacciono il molto. Passaggio veloce nei 45 minuti da sconosciuti a conosciuti. A conosciuti. E con la voglia di riprovare. Ma metodica... scegliendo Light My Fire dei Doors, l'avete scelto più per la melodia o per il contenuto del testo? Un po' per tutte e due le cose. In realtà, anche se poi la melodia l'abbiamo fatta a pezzi, l'abbiamo stravolta come volevamo noi. Poi il contenuto, in realtà, se si ascolta bene il testo, se si legge bene il testo, si può anche interpretare in due modi diversi. Se lo vediamo nella versione classica dei Doors, che è una canzone allegra, una canzone tra virgolette spensierata o comunque è molto positivo come brano, già dall'intro iniziale, il testo può significare qualcosa del tipo come on baby light my fire, vieni qui che ci divertiamo, facciamo festa, come sapeva farlo Jim Morrison, ecco. Nella nostra versione le stesse parole possono essere interpretate in maniera diversa, perché un suono, un mood un po' più drammatico del brano può stare a significare, infatti quando registravo le parti vocali ci pensavo, lo interpretavo così, dicevo, sembra quasi una relazione che stia per finire e uno dei due dice come on baby light my fire, come dire trovami un motivo per portare avanti questa storia che sembra non funzionare, troviamo un motivo per rinvigorire questa situazione che sembra destinata a chiudersi, quindi come on baby light my fire, cioè ravviviamo questo fuoco che sembra spegnersi. Questi giochi dei chiaroscuri, perché nel pezzo ci sono i giochi di chiaroscuri fatti da voi chiaramente, quindi è una cosa importante, fondamentale, cupo fino a un certo punto, poi questo finale prog che io e Flavio amiamo particolarmente, rivissuto corretto, proprio ripreso, totalmente allontanato dalla matrice chiara, avete fatto una cosa, ripeto, come avevo detto all'inizio, azzardata nel senso positivo del termine. Sì, abbiamo provato a metterci in gioco come probabilmente non abbiamo mai fatto prima. E devo dire che abbiamo avuto riscontri molto positivi anche da appassionati, se non dire puristi, dei Doors. Perché avete toccato il mito. Abbiamo toccato il mito. È quello, avete toccato il mito. Se Metodica giocano fino in fondo. Quello sì. Quello sì. Certo, giocano soprattutto con metodo. Sì, bene. Siamo allora, metodici. Abbiamo parlato di Light My Fire, che è anche il titolo del vostro ultimo lavoro, Metodica, e adesso però... non fermiamoci qui, si continua con la musica e visto che avete portato anche una bellissima chitarra nera, ecco, definiamo anche il colore, e cosa possiamo ascoltare ancora dal vostro CD? Allora, adesso vi facciamo ascoltare The Marble Column, che è un brano che era già presente sul nostro album d'esordio Searching for Reflections e che abbiamo riproposto in versione radio edit. Su questo nuovo singolo, la versione radio edit era studiata appunto per le radio ed era prima del singolo era disponibile solo in versione digitale, abbiamo voluto metterla anche su supporto fisico. Bene, adesso ascoltiamo un'altra versione quindi di Marble Column. È una versione in esclusiva, sì, questa sera in esclusiva, perché poi l'esclusività sta nel fatto che questa canzone che ascolteremo sarà anche registrata, inserita all'interno dei nostri archivi sonori per dare la possibilità agli ascoltatori di ascoltare ancora una volta l'intervista e ancora una volta la canzone che adesso ci propongono in Metodica. Quindi in Metodica con The Marble Column, qui a Blu Radio Veneto. Don't wake up, stay down there, so you won't see the fallen bones. All the people stare at eagles flying, but how long? Come see the fallen bones. Feels like when you watch TV, sparkles and fireworks at the reach, right behind the hills, they tell you that this had to be. They did the same to me. Tonight, treasures beyond the hills. Tonight, treasures beyond the hills. Oh, yeah. Kill heaven land, kill heaven land, kill heaven land. Silent boys, plastic toys, the greatest army ever seen. Army soon will fall, the pieces they don't fit at all. Is there a God to call? Water's falling from your eyes, I have the sun to smell, rainbows whistle from this land, headed us to the wishing well. Maybe the walls of hell. Stars beyond the hill tonight. Stars beyond the hills. Oh yeah. Dreamless. And the column will fall down. And the column will fall down. Will fall down. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Amici di Blue Radio Veneto, avete sentito che belle sonorità sono uscite dalla vostra radio, sia in automobile che in appartamento, che in casa, che in camera vostra, insomma ovunque voi abbiate modo di ascoltare la radio. Speriamo che queste note vi siano giunte assolutamente bene sulle vostre orecchie. Allora abbiamo i Metodica, un gruppo che arriva da Verona in rappresentanza di questo gruppo formato a 5 persone. Abbiamo ben 2 persone qui in radio con noi, quindi salutiamo ancora Marco Piccoli, che è batterista della band, e Massimo Piubelli, che è voce della band e per l'occasione anche chitarrista. E niente, beh, devo dire che te la sei cavata veramente bene, Max. Finora sì, dai. Finora sì. Diciamo, allora, questa The Marble Column, che quindi sarebbe questa colonna di marmo, così, così dura, così solida, l'avete scritta pensando a cosa? Il pezzo parla della guerra, dei conflitti tra varie nazioni. Basta guardarsi in giro perché ogni giorno si possa trovare qualche spunto per un pezzo del genere, purtroppo. E Marble Column in realtà è una metafora, nel senso che è rappresentato un po' in un simbolo. Infatti alla fine dice and the column will fall down, la colonna crollerà, quindi come dire, tutte le cose che dure, difficili, che vengono rappresentate da questa colonna, bene o male prima o poi si sgretoleranno. È la guerra vista però da un punto di vista emotivo. Nel pezzo originale, che è quello in versione integrale, diciamo, che fa parte dell'album d'esordio, sì, che dura 12 minuti e 9 secondi. Per l'occasione invece questa è una versione ben più ridotta, perché ne dura 4 minuti la versione, sì, appunto, edit. Nella versione originale c'è addirittura, sembra quasi una rappresentazione, perché c'è l'uomo ordinario che rappresenta il grosso del testo, poi c'è il soldato che entra a un certo punto nel brano, che parla solo da soldato, per cui ho il nemico, gli sparo, c'è il nemico, mi spara, quindi è proprio il soldato nel suo ruolo. E poi c'entra, a un certo punto entra anche Dio, che fa una frase, fa un'apparizione, dice non venitemi a cercare, perché quello che avete combinato l'avete combinato voi, io non appartengo a questi luoghi. Sì. Non avete combinato così tanti casini che adesso non riesco più a sistemarli. E quindi è un pezzo anche abbastanza triste, tra virgolette. È un pezzo comunque non così pieno di speranza come potrebbe essere, però alla fine il pezzo dice e la colonna crollerà, per cui magari gli semi per il cambiamento ci sono, il problema è riuscire a trovarli, cioè la capacità di trovarli. L'altra cosa all'interno di questo Searching for Reflection, che era dove si conteneva per la prima volta questo pezzo, il pezzo stesso era diviso in due, quindi con una parte prima chiamata Evenland e poi anche con le parti dei personaggi proprio ben suddivise, quindi c'era il Soldier, c'era Gold, c'erano tutti i personaggi, e chi è entrato in possesso anche della versione CD di Searching for Reflection ha potuto anche seguire i testi di questa, diciamo, rappresentazione. Una rappresentazione che vede una foto anche molto molto scura, molto terribile, della morte, vogliamo dire, sì, in questo c'è caso. Questo, noi l'abbiamo ribattezzato Mr. Mortimer. Sì, che rischiava anche di essere la copertina di questo disco. Beh, in realtà il Marble Column l'abbiamo pubblicato come singolo digitale, come copertina abbiamo usato proprio quella foto, abbiamo usato proprio Mortimer, perché in realtà rappresenta molto bene il senso del pezzo. C'è questo incappucciato che sarebbe la morte con la maschera antigas, sì, che sì, quindi rappresenta la guerra, e poi a fianco c'è un televisore rotto che rappresenta un po' i media, la comunicazione, la TV molto spesso distorta, e le candele che comunque hanno anche di funereo. Certo. È molto macabro. Questi 12 fortuna minuti... che abbiamo le luci accese, Maurizio. Certo, certo, hai ragione. No, dicevo, questi 12 minuti che sono colati ai 4, sì, sì, la critica parla di Dream Theater che poi si allontanano stasera. In questo momento i Dream Theater sono molto allontanati, secondo sì, me. Sì, assolutamente. Sì, sì. Hai fatto un pezzo, è una ballata cupa. Possiamo dire una ballata cupa, possiamo cupa. Dire una ci murder sta. Ballad ci alla sta, Nick Cave sta. In alcuni istanti. Ci sta, ci sta, ci sta. Può stare. Ed è, sì, è il, Il mood del brano comunque è questo, è molto cupo. Poi nel disco c'è tutta la strumentazione, ci sono certo, i soli, certo. Per cui ha più la connotazione prog. Però in effetti, se riduciamo all'osso il brano, è una ballata. L'essenza era quella. L'essenza è questa. E una cosa che abbiamo apprezzato molto, che ci è piaciuta molto quando abbiamo cominciato a rivisitare i nostri brani in acustico, è che comunque hanno la caratteristica, per fortuna, che comunque stanno in piedi anche in acustico. È chiaro. Comunque sono delle canzoni vere e proprie, non sono solo quei pezzi che rendono solo se la tecnologia rende, esatto. Comunque le canzoni ci sono, ecco, poi noi le vestiamo con tutte le sì. Che sappiamo fare. A proposito di canzoni che ci sono, parliamo ancora dell'EP Light My Fire dei Metodica, dal quale andiamo ad ascoltarci un altro pezzo che si intitola Canast, eccolo qua. We'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. E quando io e Maurizio abbiamo ascoltato per la prima volta questa canzone abbiamo detto: accidenti, come picchiano questi. Esattamente. In realtà è stato il primo riferimento immediato ascoltando Knast, poi abbiamo visto che non c'era solamente il picchiar duro della prima parte della canzone, ma tutto un intarsio che poi ha costruito in una maniera, non dico diversa la canzone, però c'è stato un modellamento maggiore che non un hard rock temerario. Poi Knast, se non sbaglio, in tedesco vuol dire suonare. No, nel vostro linguaggio? No, in realtà in tedesco significa prigione, galera. Ah, prigione? Io non so il tedesco. No. Sì. Io ho reminiscenze delle superiori, ma ho rimosso quasi tutto quanto, però un dizionario lo saprei bene. Ah, cosa. bene. Allora, pensavo il Knast come suono, suonare. Ecco, no, in realtà il tedesco è melodico come un elefante che pattina, secondo me. Però sì, comunque in realtà significa proprio prigione, galera. Mm. È un pezzo che parla un po' dei conflitti interiori. In realtà la galera non è una galera fisica, una prigione fisica, è proprio una prigione dovuta ai conflitti interiori o alle barriere che noi stessi ci poniamo. E, è molto duro come brano rispetto a quello che facciamo di solito o quello che abbiamo fatto finora, però ci è venuto così. Abbiamo voluto fare una cosa che fosse abbastanza d'impatto e anche di rottura con quello che facevamo precedentemente. Poi in realtà, ascoltando il brano, la cattiveria si stempera e comunque emergono in metodica e anche il nostro lato melodico, per quanto magari difficile da assimilare. Sì, ma all'inizio va oltre il metal, secondo me va al noise, poi si ritorna sui sentieri più... L'hanno anche definito un prog punk, sembra quasi... Sì, un po'. Però dopo ritorna nei sentieri vostri, dopo chiaramente. Ritorna nel metal è solamente un motivo, sì. una chiave di volta per andare avanti. E giustamente tante riviste metal avevano recensito il vostro album di esordio. Citiamo Metallus, Rock, Rebel Magazine, True Metal. Però non è metal il vostro, ha l'impatto forse. L'idea, ma l'idea non è questa. Noi siamo più prog, abbiamo magari delle influenze metal, però in effetti non siamo il classico gruppo heavy metal che potrebbe andare proprio quelli cappelloni. Certo, che, capito. Cioè, l'iconografia classica del metal più di tanto non ci rappresenta. Perché appunto arriviamo anche da esperienze diverse, ma abbiamo anche un modo di porci, un modo di suonare, uno stile che ci sta fino a un certo punto. Ecco. Certo, e giustamente mentre il pezzo andava, il nostro batterista, il microfono era spento, diceva una cosa interessante, adesso la puoi dire in diretta. Io a proposito di questo pezzo. Quando c'è il microfono spento. Lo dici adesso che c'è il microfono. Guarda che era spento. Io ormai l'ho detto. Beh, lo puoi dire adesso. Allora, dimmi Marco, il tuo impatto con questo pezzo, che tu non sei un batterista a metà. No, difatti, dicevo che ho trovato un po' di problemi verso questo brano, per il semplice fatto che non è nel mio DNA, non è nel mio sangue. Si è cercata la voglia, cioè c'era la voglia di trovare quel qualcosa che dasse la scossa, quel qualcosa di accattivante, e ci siamo detto dai che facciamo il pezzo per i rockettari, per i metallari. Poi appunto si sente, parte particolarmente aggressivo e poi già comincia a cambiare, perché effettivamente noi Metodica non abbiamo questo stile, non è nel nostro DNA, come dicevo prima, e penso che abbiamo alla fine tirato fuori un buon prodotto, e vedo che è stato criticato bene, è stato, assolutamente, tutti gli hanno parlato benissimo, ecco, che io non ci speravo di... benissimo. No, nel senso che comunque ci stava anche questo, un brano così secondo me è servito proprio per dare la scossa. Anche per far vedere una faccia diversa. Una faccia diversa, certo. Appunto. Proprio perché, per dire che possiamo spaziare in altri ambiti che magari non sono proprio quelli dove ci vogliono incasellare. O magari sì, ma sì. Perché è brutto essere incasellati. È un po' quello. Adesso noi appunto scrivono sulle recensioni, appunto sui giornali metal, ma in realtà non ci consideriamo metal. Noi facciamo prog. Poi dagli appassionati di prog giovani, quindi vuol dire prog, vuol dire Dream Theater. Esatto. non è neanche carino neanche quello, perché si scorda che il prog ha mille sfaccettature. Noi non potremo mai considerarci Dream Theater perché loro sono la tecnica in persona, noi cerchiamo più le parti melodiche, siamo un gruppo prog, un prog più melodico. Ho capito. Ecco, tante volte troviamo anche questa difficoltà, cioè vengono a ascoltare il gruppo prog, però poi rimangono un po' delusi perché vorrebbero vedere le 300.000 note della chitarra. Certo, ma a proposito di questo, citiamo la chitarra Fumicotone, che la solista, proprio che dà una colorazione un po' particolare, una bella colorazione al pezzo. Sì, è stato un l'assolo, l'ha fatto il nostro chitarrista. Certo, Marco, che salutiamo. Ciao Marco. Era una cosa che aveva in mente già da fare da un po', perché all'inizio lo suonavamo senza solo, però lui in effetti era dell'idea, secondo me una solo ci può stare. E alla fine, visto comunque che il brano anche in fase di registrazione stava prendendo questa piega molto noise, molto schizofrenica quasi, è vero, ho detto non possiamo metterci una solo con quattro note o comunque una solo banale, e ha detto devo metterci qualcosa che mi ispiri, qualcosa che mandando il pezzo mi faccia muovere le mani da sole. E ha fatto questo pezzo, questo solo molto, sembra quasi Buckethead, cioè una cosa un po' al Fulmicotone, che però era perfetta per un brano come questo, era proprio quello che mancava per rendere il brano veramente... Ecco, diciamo che chi ascolta in Metodica dovrebbe più di forse di qualche altro gruppo chiudere gli occhi e lasciarsi un po' trasportare di più, perché noi in Metodica siamo un po' fatti così, cioè quello che ci esce proprio a livello proprio di sensazione, di aria che respiri, e se un brano parte così tutto ha un suo perché, nel senso lo portiamo a termine col suo perché, col suo colore, con quello che lo può caratterizzare, ecco perché magari spesso ascoltando in Metodica si sentono brani addirittura che sembrano di quasi due gruppi diversi, però quello è quello che ci nasce un po' dal sangue, da noi, insomma. Per dire, scusa. No, anche perché arriviamo tutti da situazioni diverse, da esperienze diverse, da gruppi diversi. Il cantante è nato e cresciuto ascoltando e amando U2. E io appunto, ripeto, ascoltavo dalla Fusion perché il fratellone più grande mi faceva ascoltare quello, sono passato dei Bon Jovi per poi arrivare appunto anch'io ai Dream Theater. Non parliamo del nostro tastierista, che lui è il più cattivo di tutti. Lui è Meshuga, Megadeth. Lui è il metallaro della band, lui è quello più metallaro. Ecco, quindi se c'è una parte particolarmente aggressiva nel pezzo, probabilmente è nata da lui. Ecco, invece le parti più melodiche nascono da Max, che ha la voce, o dal Ciscato, che è la chitarra. Loro sono i due melodici del gruppo, i due romanticoni, chiamiamoli così. Che può essere romanticone fare un pezzo come Knas. Sì, beh, per carità. Ci sta anche quello. Romantico anche vuol dire fare un pezzo come se romantico potrebbe essere anche fare esattamente un pezzo come Knas. Metterlo in quel momento. Io e il bassista dobbiamo sempre però sopportare tutti. Dovete fermarli, dovete fermarli. Sì. Cioè, perché loro trattenere sono difficili. È giusto che sia così, no? Beh, certo, vuole sempre. Chi comanda la in un carote. Gruppo democratico, in un gruppo democratico comanda solo uno, no? Certo. Cioè io lo sappiamo, ecco. Ho le bacchette in mano. Perfetto. E allora, Metodica sono venuti a trovarci per proporci il loro ultimo EP, che si intitola Light My Fire. In questo caso l'ascoltiamo anche in versione acustica, solo chitarra e voce per Max Piubelli, che è cantante dei Metodica normalmente, questa volta canta e suona la chitarra. Allora ti ascoltiamo, Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. My fire, come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it would be a Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E questa era la versione in acustico di Light My Fire in metodica con noi all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, chiamata Blue Time, in questo caso live, perché c'è anche la versione acustica dei pezzi, grazie ai gruppi che si alternano durante queste belle serate di musica insieme. Quindi metodica da Verona, Light My Fire, che ci volete regalare anche in versione video. Peccato che non abbiamo a disposizione il video in questo momento, però c'è una maniera per fare in modo che anche gli ascoltatori si guardino questo video e poi prendono anche coraggio ed entrino in possesso del CD. Come fare, sì, Max? Basta andare su YouTube, noi abbiamo un nostro canale YouTube che è Metodica Channel, oppure dal nostro sito ufficiale www.metodicaband.com c'è una pagina proprio dedicata ai video, dove potete vedere tutti i video che abbiamo girato per le nostre canzoni. Ci sono Neon, The Marble Column e appunto anche Light My Fire. Allora, questa Light My Fire, una versione senz'altro, come definiscono in molti, da pittore, no? Quindi qualcuno ha detto: questo è un video che avrebbe fatto Caravaggio, quindi con questi toni molto, molto particolari, scuri, con giochi di penombra, grazie anche a una modella che ha voluto prestarsi molto bene per l'opera, per l'occasione. Sì, una modella che abbiamo trovato grazie alla nostra regista, lunghe ricerche, ma soprattutto alla nostra regista Valentina Fusa e al nostro cameraman che aveva appunto fatto le riprese, Mattia Benetti. È una modella che ha, si chiama Valentina Bellè, ha lavorato anche con i Modà perché appare anche in un video dei Modà. E l'abbiamo anche presa al volo, tra l'altro, perché 20 giorni dopo le riprese partiva per New York per andare a studiare recitazione. Però adesso è ancora a New York, ancora, ancora la raggiungeremo. Ecco, beh, per il secondo video. Mai. Per il secondo video. Lei si è divertita moltissimo. E poi devo dire che ha valorizzato tantissimo il video, che di per sé rappresenta molto il brano, con questi chiaroscuri del brano che abbiamo voluto mettere anche nel video. Lei dava un valore aggiunto davvero non indifferente al videoclip, perché comunque anche il videoclip rappresenta un po' la nostra idea di Light My Fire. Nel video praticamente lei accende delle candele, appunto Light My Fire, e noi che siamo dei manichini immobili in questa stanza tutta piena di specchi, pianoforti, arazzi, tappeti, e noi prendiamo vita man mano che lei accende le candele. Quando lei spegne una candela crolla tutto, cade la clessidra, cade la scacchiera, cadono i libri, cade anche il nostro chitarrista dalla sedia. E poi... ma non raccontare la fine, sennò sì, sennò poi ok, allora dopo non raccontare tutto. Non racconto tutto, ecco. Dopodiché, dopo che lei ha spento la candela e crolla tutto, poi c'è il video che prosegue, c'è il colpo di scena, tra virgolette, che vi invitiamo a vedere comunque. Benissimo, sappiamo che anche il video non è solamente disponibile su YouTube, troppo facile, ma è anche prigioniero del vostro CD, quindi all'interno di Light My Fire, oltre ad ascoltare i pezzi, sono inserite sul computer. Si può vedere il videoclip. Vi viene fuori questo bel videoclip che merita senz'altro di essere visto. E tra le altre cose, la copertina di Light My Fire che porta questa clessidra è proprio presa da questo video. È un fotogramma del videoclip. Questa clessidra dove la sabbia scende lentamente e le candele bruciano lentamente, e quindi Valentina deve andare lì a... Lei praticamente deve illuminare questa stanza che è nella penombra. Anche noi ci sono delle scene in cui suoniamo e usciamo quasi dalla penombra, perché proprio appunto citando Caravaggio prima, abbiamo voluto proprio prendere il suo stile pittorico, con queste sagome illuminate a malapena che uscivano dall'ombra. Noi proprio sembriamo uscire dal buio mentre suoniamo, ed è una cosa che è perfettamente in linea con il brano. Ma in linea col brano, perché anche lo stesso Jim Morrison era un uomo che usciva dall'ombra, dalla penombra, un po' era l'arte. Lui aveva l'arte. Lui usciva così, zacca. Esatto, lui aveva l'arte come punto focale. E voi avete citato Caravaggio, avete citato uno dei più grandi pittori mai esistiti. E Jim Morrison era l'arte, se possiamo citare su questo. Aveva fatto scuole impegnate, Jim Morrison, scuole di alta cultura. Lui non era solo cantante, era anche poeta. Era un po' di tutto. Un po' di tutto, faceva anche il regista, faceva anche cortometraggi, quindi era più ampio di quello che si ricorda. Sì, non era solo l'immagine della band, anche se era una grande immagine per cui... Bene, continuiamo con l'ascolto del lavoro dei Metodica, dando spazio anche a questo pezzo che si intitola Neon. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Oh, Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. All'interno di Blu Time Live è uno spazio dedicato al disco dei Metodica, si intitola Light My Fire. Questo pezzo si intitola Neon, un pezzo che era già racchiuso all'interno di Searching for Reflection, seppur di durata più lunga, quindi ce lo siamo ascoltati nella versione più complessa, e possiamo dire che è veramente un classico dell'hard rock. In questo caso abbiamo riconosciuto molte atmosfere che a noi piacevano molto un tempo, quindi siamo andati indietro di 30 anni fa con la musica, però nel 2013 siamo. Sì, ha molte reminiscenze del rock più classico questo brano, però riarrangiate con le sonorità di adesso. Ha avuto vari paragoni come brano, citazioni dai Dream Theater più classici, anche Deep Purple. Deep Purple, addirittura ultimamente ce l'hanno anche paragonato ai Tool. Che tutto sommato è tutto sommato un complimento, un paragone è un ottimo paragone, assolutamente lusinghiero averne di paragoni così. E, no, devo dire che in effetti è il brano su cui noi abbiamo fatto a suo tempo comunque molto affidamento. È stato il brano con cui abbiamo fatto anche il primo videoclip, tra l'altro, per la regia di Cristian Biondani. Abbiamo fatto molte aperture di concerti con questo brano e l'abbiamo suonato molto dal vivo comunque. Perché e anche questo un pezzo che parla di luce, quindi da Light My Fire a Neon, quindi una luce artificiale. In realtà Neon è solo il titolo, però il testo non c'entra assolutamente nulla. No, perché vedo Feel the Ray on Me, See the Ray on Me, no? Quindi quelle due urla che, dove parli di pioggia. Il brano in realtà parla della incomunicabilità tra le persone, quando due persone non riescono a comunicare, non riescono a capirsi. Era una rielaborazione di un testo che avevo scritto anni prima, che si intitolava appunto Neon, però poi l'ho cambiato completamente, ho cambiato il senso, ho cambiato le frasi, ho tenuto alcune cose, altre le ho cambiate, ho tolto proprio, però mi piaceva il titolo, per cui ho detto, anche se magari è una cosa diversa da quello di cui parla il brano, è così particolare, così comunque interpretabile, che si capisce in tutte le lingue, ho detto ma sì, ci può stare. Il brano, in effetti, Neon, volevamo dire, se ci fosse magari questo neon acceso che riuscisse a illuminare un po' i pensieri, a capirci, farci capire con le altre persone. Però quando dico feel the rain on me, senti la pioggia su di me, senti la pioggia attraverso di me, è un'immagine comunque che non lascia molte speranze a questa luce di illuminare. È detto che apre molti i vostri concerti, apre tuttora i vostri concerti questo pezzo. Sì, a volte sì, a volte perché deve spaccare, deve spaccare, però siccome abbiamo anche altri brani che spaccano, tutto sommato riusciamo. Noi valutiamo di volta in volta, dipende dalle situazioni del concerto che ci troviamo. Bene. Cioè la scaletta le fate di volta in volta, o fate sempre determinati pezzi li suonate sempre. Vengono cambiati, vengono variati a seconda della posizione, a seconda del luogo, però certi pezzi sono Per esperienza abbiamo visto che allora per puntare, diciamo, al successo, adesso senza essere troppo occorre avere dei brani validi, una buona presenza e studiare bene qualsiasi cosa quando si sale sul palco. Capito. E quindi anche cambia essere andati ad aprire il concerto ai Scancanensi o a qualche altro gruppo come i prossimi che saranno i Pendragon. Il pubblico davanti cambia, e quindi anche tu che fai d'apertura devi cambiare, adattarti alle situazioni. Quindi un brano come questo può andare bene per una situazione, mentre per un'altra situazione magari potrebbe andare meglio aprire con Nelly Mind, proprio perché la gente davanti perlomeno trova un qualcosa che lega tutta la serata. Ho capito. Certo, quel Nail in My Hand che andiamo ad ascoltare subito dopo. Però visto che abbiamo parlato di concerti, vogliamo segnalare qualche concerto qui in zona, qualcosa che vi vede già hai segnalato qualche... Sì, abbiamo questo concerto, sì, in programma con i Pendragon, il, sì. Esatto, il 5 di maggio apriremo la serata e apriremo il concerto dei Pendragon, che sarà a Caselle di Somma Campagna alla Sala Polivalente. È un concerto organizzato dal Giardino, il club Il Giardino di Lugagnano, che è uno dei il tempio a livello veneto, forse anche oltre il Veneto, del progressive, anche italiano e anche internazionale. Abbiamo già avuto l'onore, tra virgolette, abbiamo già avuto l'onore di suonare in questo locale. Abbiamo aperto nel 2011 per i Delirium e adesso suoneremo prima dei Pendragon. E noi facciamo d'apertura a tutti. Noi apriamo vedremo quando qualcuno ci aprirà il concerto. Devo dire che come gruppo Spalla abbiamo una buona esperienza, perché siamo passati dai Delirium agli Scancanensi, agli Uriah Heep, agli Anathema. Adesso avremo i Pendragon. Nel 2010 avevamo suonato al Ex Prog a Mogliano Veneto, dove c'erano i Merillion la stessa sera. Ah, però. E quindi abbiamo avuto. Ma che difficoltà è fare il gruppo Spalla, non nel senso negativo, di aprire prima della star cosiddetta. Il problema è che non sai mai che pubblico hai davanti. Noi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato comunque un pubblico attento. Ok. Per dire, anche in Svizzera quella sera pioveva. Ma quanto pioveva. Eppure la gente è rimasta lì tutto il tempo ad ascoltarci, chi con l'ombrello, chi con il keyway, chi addirittura senza, così senza. Esatto. Si parlava di luglio, però comunque Svizzera è sempre Svizzera, appunto, non è caldo come non qua è caldo come qui, appunto, e là è più facile che piova rispetto a qui. Certo. Però la gente era lì ad ascoltarci. Noi gruppo gruppo sconosciuto che vedevano e sentivano per la prima volta, però sono rimasti lì ad ascoltarci tutto il tempo perché erano interessati alla musica e a quello che suonavamo. È una cosa positiva, molto positiva. Questa è una cosa che ci ha caricato tantissimo. Certo. Perché il rischio di una band che fa da Spalla è essere fischiata. Sì, sì, sì. Sostanzialmente quello. Quel rischio lì. Sì, complice comunque, secondo me, anche l'età del pubblico che arriva a vedere gli Uriah Heep. Senz'altro non sono i quindicenni, ce ne sono la minima parte. Arriva gente ben più matura e quindi che ha una capacità d'ascolto senz'altro più forte. Sì, diciamo, sì, sicuramente se vengono ad ascoltare l'Uriah Heep, comunque vengono ad ascoltare musica di qualità e quindi se immaginano, prendono per scontato che anche i gruppi che sono prima comunque abbiano una certa caratura. State a non deluderli, e quello è un po' il senso di responsabilità che ti senti addosso. Abbiamo la fortuna noi di avere appunto il nostro chitarrista che noi diciamo ci vede lungo su queste cose e studia molto queste, come mettere giù la scaletta, come ci ha insegnato molto da questo ci ha insegnato molto, e secondo me i Metodica hanno sempre fatto centro anche da questo punto di vista qua. Si sono sempre fatti trovare preparati e non abbiamo perlomeno mai deluso nessuno. L'abbiamo visto, ce l'hanno detto le persone stesse, scendi dal palco e vedi la gente che addirittura vuole fare le foto, quindi vuol dire che qualcosa gli hai lasciato. Proposito, dopo di foto, diciamo che durante la trasmissione stiamo scattando qualche foto che poi inseriremo all'interno della nostra pagina su Facebook e anche all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it. Basta cliccare nella notizia riservata ai Metodica, che resterà anche dopo questa serata, per ascoltare la trasmissione e per vedere quelle 3, 4, 5, 30 immagini che vorremmo inserire per documentare la serata. Di cui 29 saranno io che sono con gli occhi chiusi. Certo. Vuol dire che eri ispirato. Vedremo di fare dei fotomontaggi con gli occhi ben aperti e fare la concorrenza anche a chi vi ha curato i fotomontaggi delle vostre copertine. Andiamo avanti con la musica in versione acustica, quindi ancora Metodica, questa volta con Nail in My Hand, Metodica. You are my broken bones, you are my blurry sight, you are the tar in my lungs that makes me cough at night.

Beh, i richiami comunque i ci richiami, sono ma nel senso devo così dire è stato involontario perché Searching for Reflections è una frase tratta da un brano contenuto nel disco, certo, però in effetti poi me l'hanno fatto notare questa cosa qua, che c'è anche un album di New Trolls, che un grande album di New Trolls. Ritornando in questo pezzo che tu hai fatto adesso, fra qualche, finito da qualche secondo, aveva un inizio molto nero, molto duro, molto dark, molto oscuro, poi si è liberata in una ballata folk, per me solare, possiamo dire pseudo folare. Anche nel disco è un brano un po' doppia faccia. Esattamente. Ecco, una cosa che ci hanno detto del nostro disco d'esordio, una cosa positiva, certo, c'era una malinconia di fondo che attraversava tutto l'album. Infatti qualcuno ci ha chiesto anche se era un concept. In realtà non è un concept, sono brani separati che vivono di vita propria, non c'è una storia raccontata, però in effetti è vero che c'è una malinconia di fondo che, nonostante tutte le chitarre, tutte le tastiere, tutti gli assoli, tutte le parti tecniche che ci sono nel disco, comunque si respira questa leggera malinconia. E in effetti anche questo brano, Nelly My Hand, ha un che di malinconico che si riversa anche sulla versione che ho suonato adesso. È partito molto scuro, perché in effetti è un brano che parte in maniera così quasi sussurrata, per poi aprirsi nei ritornelli e comunque per noi metodica siamo anche persone solari, lo diciamo, sì, ecco. certo, assolutamente siamo diciamo che siamo macabri. Assolutamente, sembra che siamo qui anche no, perché no, prima compagnia. si parlava musica con i capelli lunghi, no, della serie heavy metal, hard rock, chi fa questo genere di musica solitamente o i capelli lunghissimi oppure i capelli rasatissimi, appunto, no? Ecco, quindi l'esatto contrario. Invece in realtà, se voi guardate anche le foto di Metallica, non c'è nessuno col capello fuori posto, cioè. Ma lì fa a parte il batterista che, esatto, c'ha i capelli con i ciuffi colorati. Ma io avevo i capelli lunghi, ma molto lunghi. Sì. Poi un bel giorno mi è venuto voglia, li ho tagliati così, però siamo tutti un po' spettinati. Anche perché sennò finiscono sempre nel rullante. Un po' quello. Poi in occasione dei grandi live, appunto, il Pistoia e così via, addirittura mi avevo fatto le punte verdi. Però insomma, avevamo cercato sempre di dare un look, perché anche quello fa la che sua peccato parte. Non averti visto in questa situazione. Ma ci sono le foto compromettenti, ci sono comunque delle foto. Ci sono in giro, nel nostro sito www.metodicaband.com c'è tutta una sezione di foto dove ci sono anche le foto di Pistoia. Lì non scappa più, perché si vede che c'ha i capelli. Benissimo, allora abbiamo imprigionato anche Marco Piccoli. Allora, piccolo stravolgimento della scaletta, visto che abbiamo ancora 10 minuti, direi di concederci ancora due pezzi live prima di salutarci, prima di dare avvio l'appuntamento con la classifica di Rock Wave con Alberto Prisco, che è anche l'organizzatore, il nostro direttore artistico per le serate live. Ecco, vuoi dire ciao anche al microfono? Ciao! Ecco qua, benissimo. Allora, più tardi alle 22:30 o giù di lì con Rock Wave. Intanto continuiamo con Blue Time Live, questa volta un pezzo che abbiamo già ascoltato da disco prima, che ci viene riproposto da Metodica nella versione acustica. Stiamo parlando di Knast. What do you need that I haven't got? What do you need? looking through the bodies leaned against the walls. The steps are getting closer. My eyes are digging holes. Hands upon my shoulder, I'm falling on my knees. Did I ever want it? Did I search for this? Ooh. What do you need that I held out? What do you need that I held out? What do you need that I held out? What do you need? Ich bin im Knast. Ich bin im Knast. Ich bin im Knast. Ich bin im Knast. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. In tedesco Ich bin im Knast, come si diceva prima, molto molto forte questa frase. Allora, Metodica, Searching for Reflection, un album, e il secondo invece Light My Fire, li abbiamo ascoltati in questa serata con intervallando l'acustico a quello da disco, la versione da disco. Allora, Metodica, ancora parlando di prog, no? Prima si citavano pochi gruppi, però quali sono i vostri gruppi di riferimento, vedendo di citarne tre magari a testa, tra Max e Marco, gruppi prog che vi hanno un po' formato, che vi hanno detto va bene, adesso basta pensare ad altra musica, facciamo la musica prog italiana? Parto io? Sì, parti tu. Allora, beh, ovviamente non ti nascondo che i Dream Theater anche in me hanno dato una buona retta via, nel senso che è un prog che a me piace, è molto energico, moderno ovviamente come sonorità, però io fin da adolescente, insomma, non nascondo i Genesis, ovviamente, che conoscono tutti, grazie al fratellone, come dicevo forse prima, e gli Emerson, Lake & Palmer. Ecco, quindi sono due colonne, diciamo, di qualche anno fa, che ovviamente ti introducono e ti portano a un certo punto ad arrivare anche ai Dream Theater. Per altre cose, è da dire, adesso tu hai citato Emerson, Lake & Palmer, forse non gli dà giustizia, comunque sarà prossimamente qua nel Veneto Carl Palmer a suonare con la sua band, però sarà, non si sanno mai, sarà in un locale che è poco più di una birreria, senza nulla togliere a loro, però ne parlavamo prima qui finché i microfoni erano spenti. Un parere personale, per me la musica in Italia, vantiamo tanto di essere dei gran musicisti, però ripeto, fai il classico italiano, se no mancano i grandi ascoltatori. Le grandi opportunità, però, perché certi nomi non possono andare, senza nulla togliere per carità, però nei localini, chiamiamoli così, cioè dovrebbe esserci più rispetto, ecco, per questi grandi nomi, per queste colonne della musica. Sì, saranno fortunati gli abitanti di Papozze, per chissà dov'è, in provincia di Rovigo. Comunque noi arriviamo anche fino a là, li salutiamo, e saranno i fortunati ad avere lì con loro anche per la notte. Poi ma mi informo della data, potrei esserci anch'io. Sì, assolutamente. Vai a salutare Carl Palmer. Perfetto. Poi non avevamo finito, forse mancava ancora qualcosa. No, è citato. Ok, tocca a Max velocemente. Max. Bene, premesso che mi ha rubato tutti i nomi che avevo in mente. Sì? Ok, allora io, se devo essere sincero, il prog ho cominciato a toccarlo con mano quando mi hanno prestato Misplaced Childhood dei Marillion. E questo è successo un po' di anni dopo che era uscito. C'era ancora Fischer all'epoca. Sì, esatto, c'era ancora Fischer, però io l'ho scoperto che c'era già Hogarth nella band. Perfetto. Quindi, ok. E comunque, Marillion sicuramente sono stati il primo ascolto prog che ho fatto, che ho avuto, e poi da lì sono si è malato e non è malato. Più da lì forte. Sono tornato indietro e ho cominciato ad ascoltare anche i Genesis, poi ho ascoltato King Crimson, ho cominciato ad ascoltare, per dire, anche poi sono passato anche io Dream Theater, Flower Kings, ho ascoltato anche tipo Transatlantico, i progetti paralleli dei Dream Theater, diciamo un po' il prog nelle forme anche non solo classiche dei Genesis, ma anche quelle più moderne, come possono essere. Benissimo. Adesso vediamo se vi ricordate questa canzone. Un attimino, vi faccio sentire le prime note, un sottofondo musicale. Cosa si vince? Ma non so, decidi tu. Questi sono i Tears for Fears, era il 1983, loro uscivano con il primo album, erano ancora sconosciuti, però poi hanno veramente spopolato. Questo era l'album The Hurting, si intitolava così, il brano è Mad World. Allora l'ho messo in sottofondo perché, non tanto per farvi una sorpresa, perché lo sappiamo già come deve finire la trasmissione, ma per inserire appunto la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Avete scelto una cover dei Tears for Fears, che però è stata già rifatta a suo tempo da Michael Andrews e Gary Jules per la colonna sonora di Donnie Darko. E rilacciandomi al discorso della nostra versione di Let My Fire, è una versione che noi amiamo molto perché è proprio l'esempio lampante di come un brano già bello e valido di partenza, reinterpretato con suoni diversi e con atmosfere diverse, può diventare quasi un altro brano, però con la sua stessa valenza, con la sua stessa dignità musicale. E la versione che aveva fatto Michael Andrews con Gary Jules era assolutamente diversa, era solo piano e voce praticamente, però aveva una potenza, è una potenza devastante come brano nella sua semplicità. La cosa più bella era proprio questo rifacimento assolutamente diverso dall'originale, che ha spopolato, tra l'altro, i Tears for Fears ringraziano, certo. E devo dire che questo pezzo io particolarmente lo amo molto, però anche i ragazzi della band so che l'abbiamo ascoltato anche come per prendere come esempio per quando volevamo fare Light My Fire. È un pezzo che è piaciuto a tutti quanti e volevo suonarvelo questa sera, versione Benissimo. Chitarra voce. Allora noi ce ne andiamo, però vi lasciamo i microfoni aperti, però frasi convenevoli del saluti. Noi vi ringraziamo di essere stato qua, grazie, stati a voi. Qua salutiamo anche David Bonato, che sì, ciao David. Ecco, salutiamo anche tutti gli altri della band, quindi Alessandro, Marco. Alessandro, no? Brusco basso, sì. Marco Ciscato chitarra, Marco Vascara tastiera. Ecco, poi salutiamo ancora Marco Piccoli alla batteria, che grazie. È stato con noi, grazie, senza batteria, e poi ancora agli applausi. E poi ancora Massimo Piubelli, che in questa serata, oltre alla voce, ci ha regalato anche un po' della sua chitarra. A vostro rischio e pericolo. Benissimo. Allora, comunque abbiamo rischiato giusto in questo caso. E allora, noi vi lasciamo i microfoni aperti, buon rientro alla vostra amatissima Verona, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è proprio tutto, buona serata a tutti, buon proseguimento delle trasmissioni con Blu Radio Veneto. Tra poco tocca Rock Wave, vi lasciamo i microfoni aperti con i Metodica per questa bella canzone che si intitola Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expressions, no expression. At my head I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take, when people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made you feel the way that every Joshua, sits and listen, sits and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad.